poco m'accenni, col tuo proteso vaporoso braccio, tu m'accenni quel loco. Ed è più dunque Maria, Maria la candida colomba. Sangue tu vuoi? Ti parla, olà, di vento soffio non fu, rapirla io debbo. Inchina la fronte tu, sia, sia, fede la tempra del mio volere, è più di quel divino. Più di quella infernale.